Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Daniele Ferrero, milanese, 45 anni, sposato con tre figli, laureato nel 92 in economia politica al Trinity College di Cambridge. Inizia la sua carriera come consulente negli uffici londinesi di McKinsey, poi in Svizzera e infine torna in Italia. Nel 98, insieme ad altri soci, acquista lo storico marchio di cioccolato piemontese Venchi, di cui oggi è amministratore delegato, presidente del consiglio di amministrazione e principale azionista. Oggi Venchi è tra i 50 marchi più appetibili dagli investitori esteri. Per lui innovare è svegliarsi la mattina e rimettere in discussione tutto. Ecco, stamattina, dottor Ferrero, cosa ha rimesso in discussione? Questa mattina ho rimesso in discussione la strategia che avevamo pensato per andare in America. Il come, il quando, il... Ha cambiato idea. Stiamo cambiando idea, sì. Ecco, lei si chiama Ferrero, fa cioccolato in Piemonte. Un Ferrero che fa cioccolato Venchi. Beh, una stranezza, non gli ha mai fatta notare nessuno? Tutti, così tanto che poi ho... Quasi una partita persa in partenza. Beh, perché è un destino, direi, più che una partita persa. A parte gli scherzi, Ferrero, Caffaro, il Peirano, tutti vecchi marchi profondamente legati al Piemonte, che fanno cioccolato da generazione. Insomma, gente che produceva cioccolato ce n'era già molta. Cos'è che mancava? Mancava un vero cioccolato italiano come si faceva una volta. La tradizione piemontese del cioccolato è antichissima, ma è stata persa durante gli ultimi 50-60 anni. E com'è nata l'idea di produrre cioccolato con un marchio dormiente come Venchi? Beh, l'idea è venuta prima di tutto di produrre cioccolato, poi ci mancava un marchio e siamo... Avete recuperato Venchi, che aveva ancora nel 98, nonostante che fosse un marchio, diciamo, dormiente ormai da 20 anni, una notorietà in Italia del 14%, quindi a dimostrazione quanto poi sono resistenti i marchi una volta che vengono creati. Soprattutto quelli antichi. Lei ha detto di essere un gruppo di azionisti e non una famiglia. Ecco, è stato forse la più importante ragione del successo quella? Secondo me sì. Perché? Perché i soci diversi, la diversità è una grandissima ricchezza. E la famiglia è un peso? Beh, forse la famiglia è molto più omogenea. E siccome la diversità è una ricchezza in sé, è difficile trovare la stessa diversità, secondo me, all'interno di una famiglia. Molto diplomatico. Senta, è vero che nella sua azienda è vietato per statuto assumere consanguinei? Allora, più che per statuto, è un codice etico che ci siamo dati ed è vietato ai dirigenti, consigli di amministrazione e agli azionisti. Non è vietato, diciamo, poi per tutto il resto quindi se uno dei suoi tre figli domani le chiedesse di occuparsi dell'azienda, lei glielo vieta? Assolutamente no. Un atteggiamento poco italiano, molto anglosassone. Ma non solo poco italiano, direi. In realtà siamo tanti soci, ognuno di noi ha tanti figli, quindi comunque non ci sarebbe spazio, disastro, diciamo, cioè, facciamo necessità. Mancherebbero gli autisti. Nessuno vuol fare l'autista. Vabbè, ok. Senta, ma le aziende a gestione familiare, che in Italia invece sono tantissime, non funzionano, sono destinate a morire, non funzionano. Allora, no, ovviamente non si può generalizzare. Secondo me la famiglia è una grandissima forza, ha questo limite. Il limite è che, siccome il merito è il motore dello sviluppo di un'azienda, è difficile trovare un merito oggettivo all'interno di una famiglia. Senta, però uno dei vostri soci è il nipote di quel Pietro Cussino che per anni ha tenuto nel cassetto appunto lo storico marchio che voi usate adesso. Se non sbaglio è lui che crea ancora oggi i cioccolatini Venchi. Ecco, un mestiere che ha imparato, quindi ha ereditato dal nonno. Lì la tradizione è un valore. Sì, più che imparato, secondo me è nato col DNA giusto, GB. Però GB, che in effetti è tutt'oggi il cioccolatiere, a dire la verità, quando la sua famiglia vendette la produzione, lui in modo indipendente, autonomo, decise di diventare socio nostro della nuova compagine, in modo, a quell'epoca direi folle, ma in tutto sommato lungimirante. In questo caso il know-how però stava nelle vene, però insomma ha funzionato. Sangue e cioccolato, ma non male. Ecco, il cioccolato, a proposito di sangue e cioccolato e non solo, da sempre si dice che abbia poteri molto particolari. Senta qua. Una sera fu invitato a bere cacao grezzo con un pizzico di peperoncino, la stessa bevanda che gli antichi Maya usavano nelle cerimonie sacre. I Maya credevano che il cacao avesse il potere di liberare desideri nascosti e di svelare il destino. Era un pezzo tratto dal film Chocolat. Ecco, a parte le credenze maya, ma è vero che il cioccolato ha proprietà particolari? È dimostrato o è fantasia? No, è dimostratissimo. Credo che, il momento clou è stato un articolo di Nature, Scientific American, non mi ricordo più, del 98, dove degli studiosi americani finalmente dimostrarono che il cacao, quindi cioccolato molto fondente, aveva delle proprietà da un punto di vista salutistico eccezionali, oltre che antidepressivo. Quindi un prodotto che fa bene ed è anche buono. Quindi diceva un po' afrodisiaco anche. Beh, no. Afrodisiaco lo dice lei, io direi no, più che altro. No, lo diceva il film, più che altro. Sicuramente antidepressivo. Vabbè, antidepressivo che insomma aiuta. Quindi possiamo dire che mangiare cioccolato fa bene. Assolutamente sì. Certo, direi, lei non può dire il contrario. No, ma è la verità. La verità, direi, aggiungerei quello ad alto contenuto di cacao. Ecco, lei, perché lì c'è una differenza naturalmente, fra l'altro contenuto di cacao e no, no? Sì, assolutamente. Ecco, lei ha 27 anni, abbiamo detto prima, lavorava per McKinsey, guadagnava molto, 200.000 euro l'anno, lire, non so se euro, lire, forse lire. Uno stipendio comunque è importante. Ecco, da consulente imprenditore è stato un salto duro? Durissimo. Perché? Cos'è stata la cosa più dura? La realtà. Cioè? Come consulente uno non ha a che fare con la realtà dura di tutti i giorni. Cioè gli dice fate così e poi affari vostri. E poi affari vostri, esatto. Invece qui sono affari suoi. Esatto, tutti i giorni. Ecco. E quanto guadagna adesso? 300.000. Vabbè, insomma. Senta, perché è tornato proprio in Italia a fare impresa? Ma per due motivi. Uno, il motivo più importante è che andando in giro per il mondo, io sono cresciuto in Svizzera, in Inghilterra, in Francia, eccetera, alla fine tutti mi trattavano da italiano. Ho detto, vabbè, allora tanto vale tornare da dove sono, è inutile far finta di essere straniero quando sono italiano. Il secondo, avevo già deciso di fare qualcosa nel cibo e pensavo che il cibo italiano avesse tantissimo da dare, certo, al mondo, all'impresa, e quindi ho abbinato piacere e dovere. Quindi, dottor Ferrero, per farcela in Italia che cosa bisogna fare? Perché lei si è messo in un settore molto competitivo. Ma tanto bisogna fare quello che uno ama fare, perché dovunque uno sia, se ha una passione veramente forte per quello che fa, poi le difficoltà uno riesce a sormontarle. In Italia ci sono difficoltà in più, ma a dire proprio la verità, nel cuneese fare impresa non è così difficile ed è una piccola Svizzera. Abbiamo veramente avuto pochi dei problemi tipici. Pochi problemi. Ecco, nel libro Impresa impossibile di Corrado Formigli, lei dice che il problema è la natura profondamente individualista dell'Italia, cioè è difficile fare squadra. Sì, assolutamente. È quello il tema. Non so perché, ma in Italia, secondo me, a questo punto, avendo adesso tre figli che vanno alla scuola italiana, lo comincio a capire, c'è poca educazione e formazione a condividere, a fare squadra, molta competitività e competizione vissuta anche abbastanza male. Fare impresa oggi è 10% competere e 90% collaborare. Anche con i miei clienti, i nostri fornitori, c'è un momento di competizione su prezzo, sulle condizioni, e poi si collabora. E l'italiano credo che abbia più difficoltà, fa fatica sulla collaborazione, quindi insomma, si parla sempre delle tasse, la burocrazia, problemi veri. In realtà ci sono quelli. Sì, ci sono, ma insomma, però lei sta dicendo ci sono quelli, ma ce ne sono di più forti. Assolutamente. Ecco, ma che cosa ha il cioccolato Venchi che gli altri cioccolati non hanno? Vediamo se è capace a dirmelo. Allora, intanto ha un peso della tradizione. Le ricette sono uniche e sono tutte nostre. Secondo, è fortemente radicato nel territorio italiano, nella misura possibile. Ovviamente il cacao non lo è, ma tutte le nocciole sono Piemonte, tutti i pistacchi sono solo siciliani, le mandorle sono assolutamente pugliesi, quindi cerchiamo comunque di avere una forte imprinting in italiano. Ecco, poi è libero da tutto quello che non sia genuino, cioè qualsiasi traccia di chimica è stata abolita. Sentiamo il suo diretto concorrente. Ogni goccia di questo fiume è cioccolato caldo sciolto della migliore qualità. La cascata è molto importante, mescola il cioccolato, lo gira bene, lo rende leggero e spumoso. A proposito, nessun'altra fabbrica al mondo mescola il cioccolato con una cascata calda, ragazzi. E su questo non ci piove. Gente? Quei tubi risucchiano il cioccolato e lo portano in giro per tutta la fabbrica, migliaia di litri all'ora. E vi piace il mio praticello? Assaggiate la mia erba, prendetene un filo, prego. È deliziosa e molto, molto gradevole. L'erba si può mangiare? Ma certamente. Ogni cosa in questa stanza è commestibile, persino io lo sono. Ecco che la voce di Willy Wonka del film La fabbrica del cioccolato. Ecco, la nostra da... più o meno è così. Ah, sì, eh? Sì, sì, venga a lei vedere. È mangiabile, insomma, sostanzialmente. Quasi. Ma da voi chi è che assaggia? C'è l'assaggiatore, la categoria. Allora, gli assaggiatori sono GB e Max, che è il nostro responsabile della produzione, ma di verità assaggiamo tutti. Io non vengo considerato assaggiatore perché sono più che altro un mangiatore, cioè io mangio e mi nutro il cioccolato. Ah, sì, e quanto ne mangia? Almeno 100 grammi al giorno. Almeno 100 grammi, fa ingrassare? No, mi sembra. No. Basta mangiare solo quello, tutto il resto va bene. Ah, lei mangia solo cioccolato? Sì, basta, abolito il resto. Fegato va bene. Senta, è vero che avete un'altissima percentuale di donne in fabbrica? Sì, in fabbrica sì. Ma non solo in fabbrica, anche nei negozi, in amministrazione. Perché? Beh, il cioccolato è femminile. Ah, e quindi hanno un talento speciale nel fare cosa? Ma un po' di tutto, ma per dirle, quando noi adesso abbiamo fatto un posting su LinkedIn per una posizione nuova da noi, 85% delle persone sono tutte giovani donne, perché insomma ovviamente il cioccolato attrae particolarmente donne. Senta, la qualità dei prodotti, la genuinità degli ingredienti, le ricette, come una volta l'ha detto, sicuramente tutto vero. Ecco, ma come si fa a mantenere tutto questo vero, che voi questa decantata artigianalità, con più di 70 punti vendita sparsi in tutto il mondo? Cioè, è difficile. Allora, intanto il gelato è veramente artigianale, nel senso che ogni singolo punto vendita fa il gelato in loco, quindi più artigianale così non si può. Ma se a lei le danno del cioccolataio si offende? No. Perché? Beh, sono un cioccolataio. Sì? Però in un'intervista lei ha detto che si è ispirato al mondo della moda per lanciare Venchi. Mi sembra che l'ha presa alta, no? Bisogna avere delle ambizioni nella vita. Ah, sì. Senta, dal cioccolato però nel 2007 siete passati anche alla ciocco gelateria. Esatto. L'idea del gelato ve l'ha data con... Senta qua, un attimo. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. Un bacio al cioccolato. Ecco, che differenza c'è fra il gelato Venchi e quello Grom? Ma noi siamo fortemente siamo originariamente dei cioccolatieri, quindi il nostro cioccolato esprime il massimo della sua bontà in tutte le dedicazioni al cioccolato. Nulla a togliere a Grom, che è un eccezionale gelato, però noi non ci siamo ispirati a loro quando abbiamo fatto la gelateria. Noi avevamo bisogno di mettere su dei negozi per affermare il marchio e andare in giro fuori dall'Italia, in giro per il mondo, con un concetto retail, con un formato. E di solo cioccolato non riuscivamo a campare. Quindi Grom è arrivato prima, sì. Sul gelato sì, assolutamente. Sì, senta, sì. Ma Guido Martinetti, che è uno dei soci di Grom, hanno chiesto di entrare in politica, lui ha rifiutato. Se l'avessero chiesto a lei? Anch'io. Perché? Non è il mio mestiere, insomma. Cioè, non crede all'imprenditore che passa in politica, ormai è molto di moda. È molto di moda, forse non è più di moda, direi. Ma sta ritornando. No, non è che non ci credo, proprio non è una cosa che mi attrae. Però Berlusconi nel 2001 lo aveva votato. Sì, l'ho votato. Adesso voterebbe ancora Berlusconi o Renzi? No, non voto più Berlusconi dal 2001. Adesso? E ho votato Renzi alle primarie. Che cosa le piace di Renzi? Un po' tutto. A lei cosa non piace di Renzi? No, sì. Questo sono io che faccio le domande. Un po' tutto potrebbe. No, nel senso, mi piace lo stile. Dirompente, giovane, audace. E però soprattutto mi sono piaciute le cose che ha fatto, perché poi alla fine bisogna giudicare i politici. Ha fatto? Beh, ha fatto tante. Beh, allora non so, dal Jobs Act alla riforma, diciamo, della riforma costituzionale, a anche tutto quello che ha fatto per le banche, per aggregare il sistema bancario delle popolari, la riforma di diritto fallimentare. Insomma, senza difetti. No, Renzi. Difetti ce l'hanno tutti. Uno ce l'avrà che le ha colpito. Che mi ha colpito, forse non parla abbastanza bene inglese? Senta, secondo lei ha fatto quindi abbastanza questo governo per le imprese anche? Ha iniziato a fare. E cosa dovrebbe fare che non ha ancora fatto per le imprese? Semplificare. Quindi riforma della pubblica amministrazione. Pubblica amministrazione, del fisco, di tutte le leggi, leggine, regole, regolette. Come semplificazione, mai? Insomma, la semplificazione. Durante le manifestazioni dei No Global a Milano contro l'apertura dell'Expo, anche il vostro negozio di Piazza Cadorna è stato colpito e distrutto. perché siete stati presi di mira da Innoglobal? Occasionalmente perché stavate lì oppure c'era una scelta secondo lei? Allora, spero che non sia stata una scelta perché sarebbe tragico. Certo. Noi eravamo adiacenti a una banca, hanno preso prima la banca e poi noi. Grandi danni? No, non grandi danni. Però abbiamo sfiorato la tragedia perché avevamo delle persone in negozio e hanno buttato una bomba, una Molotov che per fortuna non è scoppiata. Voi c'eravate a Expo? No. Come mai? Non potevamo permettercelo. Ah, addirittura. Sì. Ma lei è tra quelli che considerano che Expo è andata bene o male? Benissimo. Perché? Beh, io posso dirle quello che noi abbiamo avuto come effetto indiretto. Sì. Abbiamo avuto intanto ricevuto tantissime visite da operatori esteri che sono passati anche grazie all'Expo e poi sono venuti, hanno visto i negozi, hanno visto il business, vogliono incontrarci, e tutti quelli che abbiamo incontrato dall'estero hanno decantato l'Expo e Milano e l'organizzazione. Quindi abbiamo avuto sicuramente un effetto, diciamo, promozionale del Made in Italy molto forte. Quindi da milanese Sala lo vede benissimo come sindaco. Sì, direi di sì. Sì. Imprenditore che passa la politica, però. Ma Sala non è un imprenditore. Vabbè, insomma, un manager. Vabbè. I manager possono, gli imprenditori no. Va bene, ho capito. Senta, Corrado Passera, che è manager imprenditore, non lo so. Non lo conosco. Non lo conosce, va bene. Senta, insieme a altri imprenditori del settore, Oscar Farinetti, Nicolo Branca, Claudia Limonta, Rovagnati, lei è consulente del primo fondo di private equity che è dedicato al settore agroalimentare italiano. Cosa fate esattamente? Allora, noi non siamo consulenti, siamo nel comitato di investimenti. E cosa cercate? Cercate aziende medio-piccole da finanziare per rivendere? Che cosa? Sì, diciamo, il fondo di private equity classicamente finanzia... No, il vostro, dico. Esatto, è tipico nel fondo di private equity, solamente dedicato a tutta la catena del food, quindi cerchiamo imprenditori che abbiano dei progetti nel mondo alimentare di espansione, sia in Italia che fuori dall'Italia, cioè sempre italiani ma che vogliono o aggregarsi e quindi diventare più grossi in Italia o andare fuori dall'Italia. E quindi rivendere anche a stranieri prodotti, aziende italiane. Per lei vendere marchi italiane multinazionali straniere è giusto o sbagliato? È giusto o sbagliato, va bene, fa parte delle cose, non credo che ci sia un giusto o sbagliato. Abbiamo visto per esempio nel settore dell'olio extravergine vendere certi marchi italiani, poi invece producono dell'olio assemblato un po' taroccato. Ma questo non è... è un problema della multinazionale. No, ma io direi questo, se gli stranieri non investono in Italia ci mettiamo che non investono, certo. Se comprano i marchi ci mettiamo che comprano i marchi. No, io non mi lamento, le chiedo. No, io dico i miei colleghi, io dico, è giusto o sbagliato, dipende poi da chi è che opera, come opera, esatto. Quindi Grom, che ha appena venduto da qualche mese all'Unilever, ha fatto bene, insomma. Secondo me è un'ottima notizia per gli italiani in Italia, che è una grossa multinazionale come l'Unilever, che è tornata a investire in un marchio italiano dopo tanti anni, è un'ottima notizia per il paese. Poi chiaramente crede nel gelato italiano, certo, tradizionale. Sì, insomma, speriamo che creda anche nel gelato Venchi. Già, ma visto che non vuole che i suoi figli entrino in un'azienda, prima o dopo capita. Potrà capitare, certo. Sì, sì. Lei è pronto, si prepara? No, non mi sto preparando. No, però, diciamo, ancora no. Quando succede, Unilever succede. Unilever è ancora lontana. Sta in Olanda. Bisogna chiedere a Farinetti. Grom, senta, e faccio un'ultima domanda. Lei ha detto, se vuoi capire com'è l'Italia oggi, compra un biglietto, prendi un aereo e vai a Pechino. E cosa capisci? Io due cose. La prima è la fame che hanno i cinesi, ma non solo i cinesi, direi tanti popoli asiatici, non solo, per tutto quello che è italiano. E anche l'ammirazione e la simpatia che nutrono per il paese, i suoi prodotti, i suoi marchi, la sua gioia di vivere, il suo modo di fare le cose. La seconda cosa che uno capisce andando a Pechino è che ci sono tanti italiani giovani che hanno lasciato casa, famiglia, mi creda, a Pechino basta leggere i giornali tutti i giorni, imparano il mandarino, non la lingua più facile al mondo, e fanno di tutto per avere successo. Ecco, queste sono le due grandi speranze: i consumatori asiatici che guardano il paese e i giovani italiani che vanno in giro a conquistare il mondo. Quindi, se vuoi farcela, devi avere fame, possibilmente di cioccolato, che sarebbe meglio. Assolutamente. Così. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. State ascoltando un programma offerto da Stufe e Caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Mix 24. Vabbè, 800 24 00 24, numero verde, 349-238-6666, l'SMS. Sentiamo, vediamo un po' se qualcuno ci scrive qualcosa sul nostro cioccolato. Tu cioccolataio. Cioccolataio. Vabbè, insomma, arriva Natale. Senti, cioccolataio high tech. No, io pensavo a un titolo. Dillo. Allora, il cioccolato è femmina, la bocca è maschia, però la bottega l'ha portata da Renzi. Si è capito, spesso, sì, detto, non perde un colpo. Ma è, secondo te non era, non era Pirittollo, dai. Non lo so. Però sai, è l'Italia. Mi ha ricordato uno slogan straordinario. Ma di quella generazione. Quale? Quello dello cioccolatino Perugina. Quando lo assaggiò Benito Mussolini. Cosa e disse? Questo cioccolato è squisito e vi autorizzo a farlo sapere. Lo sai che non si chiamava il bacio all'inizio? Sì. Come si chiamava? Perugina. Il cazzotto, mi sembra. No, una cosa tremenda. Sì, sì. Ma dai, davvero? Sì, sì. No, poi è fantastico. La storia del bacio è fortissima. Cioè, la racconteremo. Da cazzotto a bacio. Sì, solitamente sì. Funziona il contrario. Da bacio a cazzotto. È uno schiaffo e una carezza. Infatti ha avuto un successo pazzesco. Lo schiaffo e la carezza di Celentano. Vabbè, stamattina cazzeggio puro. Puro. Vabbè, senti, facci sentire la tua canzone. Subito. Outside another yellow moon, it's punched a hole in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trends are full. Hai visto? Me ne vado. Sto andando. Mestiere ormai, Sentite cosa ha messo. Ti ha rubato il mestiere. Ma io sono sconvolto. È una conversione. È in vena di moltissime conversioni. Sto uscendo dallo studio. Vabbè, sentiamo la dedica. Deve essere stata un'avventura pazzesca. Perché c'era come un buco nel cielo questa notte ed era la luna resa deforme dall'umidità. E perciò, poveretta, si è vergognata di se stessa e si è infilata, si è nascosta dentro una galleria, da dove però un treno in corsa l'ha spinta fuori e tutto quello sgraziarsi di solitudine si è sparpagliato in luce. Insomma, ha chiamato stamattina al centralino Maddalena Robin, detta Rossana, e ha voluto questa chicca da dedicare al suo nobile cugino Cyrano de Bergerac con un messaggio: attento alle ragazze che incontri il treno, perché sono solo rose senza spine. Vabbè, c'è da andare in treno. Cioè, prima il bacio, anzi cazzotto, che diventa bacio. Che era vero, cazzotto. No, io non dubito sulla precisione filologica di Minoli e Buttafuoco. Adesso le rose con le spine. No, senza spine. Senza occhio. Però diffidare dalle rose senza spine. Che si incontrano in treno. Ma bisogna dire cherche la femme anche stamattina. Insomma, in ogni caso andiamo in treno che ci sono rose senza spine. Beh sì, ma va anche in metropolitana lui, quindi vabbè. Senti Mario, tutti ho capito pubblici. Che non abbiamo voglia di dire niente. Come no? Come dire niente? Stiamo però dicendo moltissimo. Cerchiamo per favore di andare avanti. Andiamo sul concreto. Racconta, sei bolla, sicuro? Va, dai, va vai. Bene, vai. Fregato. Ho messo i Sex Pistols, God Save the Queen, perché parliamo di Inghilterra. Notizia appena giunta, Giovanni. Ah, ecco. E facciamo subito un aggiornamento. Allora, i Tornado della Royal Air Force hanno già cominciato la missione. Il voto è stato poche ore fa. Sì. Eravamo tutti svegli in attesa, lo stavamo commentando. Sono decollati da una base cipriota alla Crotiri e praticamente hanno bombardato giacimenti e pozzi petroliferi. Lo ha reso noto e confermato il ministro della difesa Michael Fallon. Allora, qua quindi si apre, si comincia, e c'è uno scenario molto grosso, perché Hollande praticamente inglesi, francesi e russi è una coalizione che, insomma, definire inadeguata adesso è difficile, perché comunque ci sono molti caccia a disposizione di Hollande, diciamo che l'ha costruita. E poi c'è questa storia, no, anche del petrolio. C'è la storia del petrolio, ovviamente, quindi del fatto che Erdogan, secondo le accuse di Putin, farebbe un commercio sotto banco con ISIS, cosa che era già stata ventilata tempo fa. Ti ricordi, ho fatto tirare fuori un pezzetto dell'intervista di poi Prodi. Riprendiamo, perché voglio dire una cosa Perché c'entra qui col petrolio, un pezzetto di Prodi che parlava nell'intervista proprio delle colonne di, sentiamolo. Lei prende Google e vede una colonna di 12 chilometri di autobotti. Nessuno li bombarda, va bene. Ecco, cioè, si vedono proprio. Sì, no, ride, non so ride, se sono di Erdogan. Rideva amaramente, giustamente, certo. Anche il presidente, insomma, Prodi. La questione si complica parecchio lì. Sì, ci volevi dire una cosa? No, volevo dire che, diciamo, oggi l'intervento, ieri c'è stato un eccezionale dibattito nel Parlamento inglese, veramente secondo me una lezione incredibile per l'Italia, dove la discussione è praticamente a ground zero, a zero. C'è una sconfitta molto grossa di Jeremy Corbyn, certo, il leader laburista, appena eletto, salutato ovviamente dai giornali italiani come se fosse stato il papa straniero che doveva rimettere a posto tutta la sinistra, individuato ovviamente come modello antirenziano. Bene, alla prima reale prova di forza Corbyn ha perso. Renzi vince sempre. Ma questo non lo so, però 11 ministri laburisti hanno votato il sì ai bombardamenti, 66 deputati laburisti si sono schierati di fatto per l'intervento in Siria, il ministro degli esteri Ombra ha fatto un discorso pazzesco, bellissimo, applaudito da tutti sul dovere di intervenire in Siria contro ISIS. E così è andata. La democrazia inglese è una cosa seria, può piacere o meno, però... è chiara. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666. Niente, non succederà niente, non succede mai niente in Sicilia. Abbiamo sentito nel film siciliano di Cimino, in Sicilia non succede mai niente, neanche quando c'è qualcuno che avrebbe volontà e soldi per fare qualcosa. Vito Varvaro, che è il presidente delle cantine Sette Soli, da circa 15 mesi cerca di sponsorizzare l'area archeologica di Selinunte, il più grande parco archeologico d'Europa. Ho detto cerca, non l'ho detto per caso. Perché non c'è ancora riuscito? Perché la burocrazia trova sempre le motivazioni per non fare delle belle idee. Applaude, perché tutti mi hanno applaudito. Naturalmente. Ma non è successo nulla. Ecco, allora facciamo un passo indietro. L'estate del 2014, le cantine Sette Soli, un'azienda cooperativa di cui fanno parte i tre quarti degli abitanti di Menfi, decide di dare un contributo di quanto al Selinunte? Noi siamo partiti volendo dare 100.000 euro. Cos'è successo? Poi è successo che, dopo che ho parlato con quelli del parco, con Castelvetrano il sindaco, tutti entusiasti, l'assessore regionale entusiasta, quando abbiamo detto e allora insomma la pratica si è bloccata perché cambia la persona che doveva decidere, così? Sì, perché se l'Inunte non ha autonomia finanziaria, allora deve decidere l'assessorato. Direttore dell'assessorato dei beni culturali siciliani dice no, difficile, vediamo, devo fare quindi, un bando. E quindi la pratica si blocca di nuovo, perché? Perché ci vuole questo bando? Ci vuole un bando, non si capisce, a un certo punto noi abbiamo detto vi aiutiamo noi, prendiamo uno studio legale di Roma che conosce bene le problematiche amministrative. Abbiamo fatto diverse riunioni, parliamo, ma non succede nulla. Nulla. È tutto fermo, tutto fermo. Insomma, per ricapitolare, non basta un codice dei contratti pubblici, non basta un codice dei beni culturali, non basta il regolamento nazionale, ce ne vuole uno anche siciliano che però non c'è, e quindi i soldi se li tiene e non può sponsorizzare il parco archeologico, è così? Questa è la tristezza della storia, ma noi dobbiamo andare avanti e quindi non possiamo stare ad aspettare la burocrazia, e a un certo punto abbiamo ritenuto nostro dovere denunciare questo fatto perché ci sembra paradossale. Beh, Pietrangelo, tu che sei un po' la garanzia della soluzione di questi problemi siciliani, o comunque di una lettura, una lettura a modo tuo, che cosa ci dici? Sti poveracci che non riescono a spendere i soldi per una cosa buona come la sponsorizzazione dell'area archeologica di Selinunte. La stessa cosa accadde nel 2014, quando Google offrì anche per una serata la possibilità di sistemare tutto, di pulire per una serata di gala, e l'assessore dell'epoca, che credo sia cambiato perché nel frattempo se ne sono cambiati 42, sì, non saprei individuare quale, l'assessore regionale, sì, certo, si oppose vivacemente perché non si poteva piegare la memoria e il sito a un'esigenza commerciale. Quanto di più stupido si possa immaginare, appunto perché c'è la necessità di far vivere quelle pietre, e quando poi oltretutto si offre un palcoscenico, certo, internazionale, qual è Google, o come nel caso adesso di Sette Soli, beh, significa, la metafora è ardita, però è urgente, e di colui il quale, non potendo usufruire delle virtù muliebri, decide di tagliare se stesso. Ah, ci siamo. Speriamo che Vito Marlo ce la faccia senza dover accedere a questa tragedia. Senti, Mario, c'è una bolla? Sì, no, c'è anche un aggiornamento, perché hanno colpito proprio un campo petrolifero. Gli inglesi, sempre. Sì, in Siria, Omar, e questo significa che stanno subito... operativi veri. Sì, e soprattutto che stanno cercando di spezzare le fonti di finanziamento di ISIS. Vediamo nei prossimi giorni che cosa succede. Però certo, adesso la coalizione è molto forte, ci sono i Sukhoi russi, i francesi con l'appoggio della Charles de Gaulle, ci sono gli inglesi con base a Cipro, non ci siamo noi, ma tanto, voglio dire, non ce la va, quindi pazienza. C'è una bolla? Pazienza, sì. So, questi sono i Led Zeppelin, rock and roll, vai. Roba di Schifani questa. Certo. Stamattina abbiamo fatto un gran consulto con Franco, sì. E alla fine lui ha detto, ma dai, facciamo i Led Zeppelin, rock and roll. E io ho detto, guarda, lo faccio a prescindere dalla notizia. Cioè, quando mettiamo, viene a lavorare è utile. Sì, sì, sì, Franco, ma perché non viene? No, viene. Ce li hai ancora sotto i Led Zeppelin, un po', vai. E in fondo un po' di rock and roll ci vuole, perché oggi è una giornata veramente importante, l'avevamo preannunciato nei giorni scorsi, che sarebbe stata una settimana piena di cose, sia sul fronte della politica internazionale, sia sul fronte delle decisioni per l'economia. E sono attese a questo punto le dichiarazioni di Draghi, dopo la riunione della Banca Centrale Europea. Sapete tutti che, tutti i nostri ascoltatori quantomeno, certo, che è previsto un allargamento dei mezzi per il quantitative easing. Certo. Vediamo come lo usano, che cosa faranno, aspettiamo ovviamente su questo. Segnalo che è uscito poco fa il dato sulla disoccupazione in Francia, ahimè non è positivo, è 10,2%, è il massimo da 18 anni, sapete tutti che la Francia è uno dei problemi dell'Europa, è il grande malato per alcuni, ricordo una copertina dell'Economist di ormai 2 anni fa che descriveva una baguette come una bomba orologeria, appunto per dire che era la bomba orologeria dell'Europa. L'altra cosa importante è che è uscito ieri via Reuters un report di Citi, che è uno dei colossi del credito, sì, delle banche americane, che diceva che l'economia americana nel 2016 potrebbe andare a zero, addirittura anche in recessione. È una previsione che danno al 65%, è da tenere d'occhio, perché se così fosse americana sarebbe grave. Sì, sarebbe grave anche per noi, ovviamente, e per la crescita mondiale. Salamino. Poco di tutto, niente di molto. Chi è questo poco di tutto, questo niente di molto? È Matteo Renzi ed è il racconto de La Repubblica delle Giovani Marmotte. e una giovane marmotta, un poco di tutto, io niente per la di faccia molto di Minoli. Eccolo, poco di tutto, niente di molto. È in libreria che c'è questa gran ressa per acquistare La Strenna di Bruno Vespa, oppure il nuovo romanzo di Fabio Volo. Sarà invece questo straordinario titolo di Paolo Cirino Pomicino a sbaragliare tutti, se non nelle vendite, di certo nella lettura. È risaputo che i libri più venduti sono quelli meno letti, e quindi questo libro verrà letto, perché è scritto dal più eccentrico degli andreottiani, così come nella definizione di Fabrizio Roncone oggi sul Corriere, ma lo vorrei ribaltare nel più andreottiano degli eccentrici, poco di tutto, niente di molto, è Matteo Renzi, che è il nuovo eroe degli italiani. Anche il nostro ospite oggi lo ha celebrato eroe, e però il karma di questo Matteo Renzi, per dirla con Vittorio Sgarbi, è quello di essere una comparsa buona per un film di Peraccioni, non è certo un principe descritto da Machiavelli. Oggi, scrive infatti Cirino Pomicino, intorno al tavolo siedono solo in tre: Renzi, Lotti e La Boschi. Ed è pochino, e perché e c'è questa descrizione bellissima che ha dato Cirino Pomicino, tutti gli altri aspettano fuori, pronti a dire sì, certo, benissimo, ottima decisione. C'era dibattito, c'era dissenso, c'era politica, così ai tempi di Bettino Craxi, di Arnaldo Forlani e di Giulio Andreotti, verso cui Pomicino, rivolgendogli sempre il rispettoso lei, mostrava comunque autonomia in forza dei voti che portava dalla campagna. E disse il divo Giulio: Paolo, no, per capire, ma stai per caso insinuando che io sia uno stronzo? Non è l'erede di Berlusconi, dunque, Matteo Renzi. No. È solo il gran mogol. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Il metile isocianato è una sostanza chimica molto instabile. Oltre un certo punto, nessuno può controllarlo. È un materiale molto pericoloso. Sarebbe bastata una piccola perdita per uccidere migliaia di persone. Era come una zona di guerra. Completamente devastata, rasa al suolo, come un campo di morte, un cimitero. Sogni svaniti, famiglie distrutte, molte vite. Questa è la cosa più grave. Il rischio peggiore è che tragedie come quella di Bhopal si possano ripetere. Ma fino a che qualcuno non avrà il coraggio di dire che tutto ciò è accaduto perché Bhopal è in India, in un paese del terzo mondo, tragedie come questa sono condannate a ripetersi. Bhopal, la nube assassina che in solo 2 ore provoca una strage. Le cifre sono spaventose. 25 tonnellate di un composto chimico utilizzato per produrre pesticidi coprono la città. 4.000 morti nelle prime settimane, che diventeranno quasi 30.000 negli anni successivi. 10 anni di battaglie contro il colosso della chimica americana, la Union Carbide, e infine la giustizia negata, lo sfregio di qualche dollaro in cambio di un massacro. Bhopal, 3 dicembre dell'84, il più grande disastro chimico ambientale della storia industriale. Le testimonianze, gli interrogativi, i misteri. Qui a Mix 24, il giallo della storia dopo il giornale radio. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Mix 24. Facciamo risentire il canzoniere di ieri. Sole uguale vulcano più 3.000 bandiere, atmosfera di precisione, corrida, furia, chirurgia, lampade, lampade, lampade. Abbiamo Giovanni da Bari che aspetta da ieri e quindi il premio alla pazienza. Giovanni. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, di Filippo Tommaso Marinetti, La battaglia di Tripoli. Giusto! Bravissimo. Che fa di bello a Bari? Io sono un medico. Medico? Ah, bene. Sì. Bene, bene, grazie. Mario, c'hai aggiornamenti sui bombardamenti inglesi? Sì, perché la Russia, c'è la prima reazione di Mosca, Mosca reagisce solo quando uno, voglio dire, partecipa operativamente all'azione militare contro ISIS, ha detto la Russia dà il benvenuto a qualsiasi azione contro ISIS, auspica un coordinamento più stretto dell'iniziativa e dice benvenuto. Ma insiste sul petrolio di Erdogan o no? Non ancora, ma secondo me durante la mattinata arriverà qualcosa. Però ha parlato il portavoce del Cremlino, che è uno degli uomini forti di Putin, Dmitry Peskov, su questo. Quindi, quindi è molto interessante perché insomma c'è una coalizione dove non ci sono di fatto gli Stati Uniti in questo momento, o sono così in attesa. Obama veramente, che loro bombardano da soli gli americani, gli americani stanno stanno facendo azioni da soli, si vede anche sul piano della comunicazione, i loro comunicati sugli strike sembrano autonomi. Sì, sembrano venire da un altro mondo effettivamente, poi fanno la loro parte ovviamente stiamo a vedere se la coalizione si coalizza completamente. Devono coordinare perché in quei cieli adesso volano veramente di tutto. Molti apparecchi. Sì, molti apparecchi. Vabbè, e noi adesso, come sempre, con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. New England Journal of Medicine, 2 luglio 2015. Uno studio sulla liraglutide nel controllo del peso. Ogni tanto, soprattutto gli obesi, sperano che ci sia qualche pillola magica che li aiuti nel diminuire o nel controllare il peso. Beh, insomma, se New England pubblica un articolo di cui vedremo i risultati, che parla di un nuovo farmaco che potrebbe influenzare il controllo del peso, beh, vale la pena raccontarvelo. Allora, hanno preso la liraglutide, che è questo farmaco di cui lo studio tratta, e l'hanno sottoposto per 56 settimane, quindi un anno, ben 3.700 pazienti che avevano un body mass index, è il rapporto tra altezza e peso. Se siete sopra 30 state messi male, se siete sotto 30 più o meno ancora siete sotto controllo, e hanno visto cosa faceva questa farmaco. Molecola, questo farmaco, cosa faceva nel controllo del peso. Questi pazienti avevano un'età media di 45 anni e pesavano mediamente 106 kg, che vuol dire un body mass index di 38, quindi molto elevato. 78% donne e 61% avevano una forma di prediabete. Dopo 56 settimane, quelli che avevano preso la liraglutide avevano perso in media 8,5 kg, mentre invece quelli che erano sottoposti al placebo, cioè una pillola uguale, ma dove non c'era la molecola dentro, avevano perso solo 2,8 kg. Ma non solo, il 63% di quelli con la liraglutide avevano perso più del 5% del loro peso corporeo, mentre invece nel controllo del placebo solo il 27% aveva perso più del 5% del peso. Naturalmente, chi è che aveva fatto il farmaco aveva qualche effetto collaterale, un po' di nausea e un po' di diarrea. Però è evidente anche che forse si apre una strada per chi è che non ce la fa da soli. Farcela da soli sarebbe sempre meglio. Mario, ce n'è una per te. Antonio da Bari ti dice: visto che a secchi prudono tanto le mani, perché non l'ho mandata a combattere in Siria? Perché non sono un militare, però io la mia battaglia la sto facendo. È la battaglia per la conquista del cuore e della mente, non solo degli italiani, ma degli europei tutti, che devono svegliarsi, perché questi non sono dubbio. Tempi di pace, è un tempo di guerra. Bisogna prendere. E io sto aspettando disperatamente che si erga soprattutto uno statista che apra gli occhi sul pericolo che stiamo correndo. Ci vuole il grande Nella pericolo. Seconda guerra mondiale fu Winston Churchill, l'anno del 1940, e qui vedremo. Per ora sembra Putin. Putin. Per ora sembra Putin. Dunque, per chiudere, Gloria Guerrera ha scelto Una di Lucio Battisti. Tu non sei molto bella e neanche intelligente, ma non ti importa niente perché tu non lo sai. se vivi per ballare, sei in cerca dell'amore, ma quale amore, ancora non lo sai.